Container. L'approfondimento settimanale su autotrasporto e mobilità di Massimo De Donato. Il Covid-19 ha rivoluzionato le abitudini degli italiani, non solo per quel che riguarda la convivialità e l'attenzione costante a igiene e uso di mascherine, ma anche per quel che riguarda gli acquisti. In questi mesi, infatti, l'e-commerce ha raggiunto un vero e proprio boom, riuscendo a penetrare anche fra quelle fasce di consumatori che finora avevano resistito. Nelle scorse settimane, Lice, l'Istituto per il Commercio Estero, e Alibaba, il colosso cinese dell'e-commerce, hanno siglato un'intesa per lanciare il Made in Italy Pavilion all'interno del marketplace di Hangzhou, una sorta di vetrina per le aziende italiane impegnate nell'export che in questo modo potranno raggiungere un mercato molto più esteso. Tessile, abbigliamento, meccanica e componentistica, agroalimentare e cosmesi sono i settori chiave che nei prossimi 5 anni potrebbero trovare posto sulla piattaforma. Tutto questo significherà anche una maggiore digitalizzazione dei processi e la riorganizzazione di filiera logistica e dei trasporti. Salve a tutti da Massimo De Donato, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Container, l'approfondimento settimanale di Radio 24 dedicato al mondo dei trasporti e della mobilità. Una trasmissione nel corso della quale abbiamo parlato spesso degli sviluppi del commercio elettronico, un elemento chiave per quanto riguarda anche la distribuzione cittadina. Dobbiamo registrare, come avete ascoltato anche dalla nostra scheda iniziale, un recentissimo accordo fra Lice, l'Istituto per il Commercio Estero, e Alibaba, il colosso cinese dell'e-commerce, che molto spesso è poco conosciuto dagli utenti italiani ed europei, ma che in realtà ha dei numeri davvero di molto superiori a quelli degli altri competitor su questo mercato ben più noti. E noi cercheremo di fare un po' il punto di questo settore e anche di questo accordo in compagnia del nostro ospite, che è Rodrigo Cipriani Foresio, responsabile per il Sud Europa del gruppo Alibaba. Buongiorno, grazie per essere qui con noi. Buongiorno a voi, grazie a voi dell'invito. Allora, cominciamo proprio con questo accordo chiuso nelle scorse settimane per rilanciare il Made in Italy. In che cosa consiste? È un accordo che abbiamo siglato una settimana fa, peraltro alla presenza anche del ministro degli Esteri. Abbiamo creato su una delle nostre piattaforme, in questo caso Alibaba.com, che è una piattaforma B2B, creiamo un paviglione Italia destinato a tutte le aziende italiane che vogliono accedere e siamo l'unico paese al mondo che facciamo un'operazione del genere, l'unico paese al mondo che ha fatto una collaborazione col governo italiano per sostenere questo, dando la possibilità alle piccole e medie aziende italiane di accedere su Alibaba.com e di vendere i propri prodotti in maniera B2B in 150 paesi del mondo, dove abbiamo 26 milioni di buyer che sono sempre e continuamente alla ricerca di prodotti di qualità del Made in Italy. Quindi certo, ritengo che sia un'ottima opportunità soprattutto per le piccole e medie aziende italiane. Ecco, dicevo prima nell'introduzione, Alibaba non è conosciutissimo dal grande pubblico come strumento di e-commerce. Ci vuole ricordare un attimo due numeri di questo gruppo? Sì. Alibaba è un'azienda relativamente giovane, è nata 21 anni fa in Cina, ad Hangzhou, in un appartamento di una cittadina cinese, quindi non in un garage della Silicon Valley. Operiamo prevalentemente in Cina. L'anno scorso il giro d'affari di Alibaba è stato superiore a $1 trillion, cioè più di 1.000 miliardi di dollari. Abbiamo 800 milioni di clienti, operiamo prevalentemente in Cina e nel sud-est asiatico. Ci tengo a ricordare che Alibaba si definisce è un marketplace. Cosa significa? Che quando un'azienda, oggi ne abbiamo più di 10 milioni, apre la propria la vetrina digitale, che sia per il B2B, per il B2C o il C2C, è l'azienda stessa che opera in prima persona in contatto con i propri clienti finali. Quindi lo store di qualsiasi azienda che decide di aprire la propria vetrina sulla nostra piattaforma è la responsabile in prima persona del rapporto diretto col cliente finale. Strategie commerciali, sconti, promozioni, logistica, ecco. Questo vuol dire essere marketplace, dando così la possibilità anche a brand molto importanti di creare e costruire la propria strategia direttamente senza intermediari in un mercato così grosso come il mercato cinese. Certo, un mercato importante, abbiamo ascoltato i numeri che sono impressionanti, ma anche credo una voglia di espansione in Europa. Lei è responsabile per il sud Europa di questo gruppo. Sappiamo che tra l'altro in Italia c'è l'unica base, se non sbaglio, operativa per quanto riguarda lo sviluppo in Europa. Quali sono le prospettive nel medio periodo? Alibaba, come dicevo, è un'azienda relativamente giovane, ha aperto 21 anni fa, ma 5 anni fa ha deciso di intraprendere un processo di internazionalizzazione aprendo una serie di uffici in tutto il mondo, tra cui l'Italia. Noi siamo stati il primo, diciamo, primo ufficio europeo. Oggi in Europa ci sono altri 6 uffici in tutte le principali capitali europee, con un compito ben specifico: aiutare le aziende, i brand grandi, medi e piccoli, tramite lo strumento internet, tramite il nostro ecosistema, a esportare i propri prodotti in Cina, in sud-est asiatico e in tutto il mondo. Siamo gli unici, come diceva giustamente lei, in Italia ad avere invece un team dedicato per il B2B, che è quello che poi ha generato questo accordo di cui sì, stavamo parlando prima, insieme con l'ICE. Tra il Black Friday e il Natale si concentra gran parte degli acquisti online. Quali sono le vostre prospettive per queste prossime feste, che saranno ancora più condizionate dall'e-commerce, visto che saremo praticamente costretti a stare quasi tutti chiusi in casa? E noi abbiamo avuto, come dicevo prima, noi operiamo in gran parte in Cina, quindi noi aiutiamo le aziende italiane a vendere in Cina. Noi, il nostro Black Friday si chiama Single Day, l'11 novembre, il Double Eleven, che quindi abbiamo fatto esattamente un mese fa, quasi un mesetto fa. È stato un grandissimo successo, tenga conto che sono state vendute in 2 giorni, perché il nostro Double Eleven durava 2 giorni, 74 miliardi di dollari di giro d'affari, più di 2 miliardi di prodotti spediti nei giorni seguenti. Ci tengo a ricordare che i prodotti italiani per la prima volta sono entrati nella classifica dei top 10 paesi al mondo per vendite sul mercato cinese durante il Double Eleven. Per quanto riguarda l'Italia, senza dubbio questo disastro della pandemia che ci obbliga a stare tutti a casa ha dato un'accelerazione fortissima verso la digitalizzazione. Questo processo si è accelerato negli ultimi mesi, sia da parte delle aziende sia anche da parte del consumatore, che sta familiarizzando sempre di più con gli acquisti. Abbiamo dei casi pazzeschi, mi lasci ricordare il caso del vino, che è uno dei canali, diciamo, meno sviluppati dal punto di vista digitale, ha avuto un boom nella vendita online in questi mesi, con cifre a tripla, a quadrupla digit. Lei ha parlato anche di logistica. Come viene organizzata la logistica per dei numeri davvero così importanti come quelli che ci ha appena citato? La nostra Alibaba c'ha una società in partnership con altre aziende cinesi, si chiama Cainiao, ci occupiamo dell'ultimo miglio, ma anche in questo caso qui operiamo con una logica di marketplace. Quindi in Cina pensierei consegnare 2 miliardi di pacchi, vorrebbero dire milioni e milioni di persone, quindi noi ci affidiamo a società terze che per nome e per conto di Alibaba fanno le consegne dell'ultimo miglio. Chiaramente con la nostra tecnologia siamo in grado di dare le consegne alle aziende in funzione della zona dove sono e come possono consegnare nel più breve tempo possibile i prodotti. Mentre in Europa come siete organizzati? C'è un'altra piattaforma che si chiama AliExpress, esatto, che vende prevalentemente prodotti cinesi, li vende anche in Italia. In questo caso qui ci affidiamo la consegna, i prodotti vengono spediti dalla Cina, diciamo, l'ultimo miglio ci affidiamo a partner locali, di cui il nostro partner numero uno in Italia sono le Poste Italiane. Bene, termino qui anche questa puntata di Container. Salutiamo e ringraziamo il nostro ospite Rodrigo Cipriani Foresio, responsabile per il Sud Europa di Alibaba, con cui abbiamo aperto una finestra su questo mondo dell'e-commerce proiettato verso l'Oriente, anche in funzione di un recentissimo accordo stipulato con l'ICE, che offrirà alle imprese italiane una vetrina all'interno di questo mondo. Grazie per essere stato con noi. L'appuntamento con Container torna come al solito sabato intorno alle 13:15. Prima di lasciarci vi ricordo anche l'appuntamento con hashtag autotrasporto lunedì con Andrea Ferro intorno alle 13.45 e l'indirizzo email invece della nostra trasmissione è container@radio24.it. Un saluto e un buon viaggio a tutti da Massimo De Donato. In collaborazione con l'Albo Nazionale degli Autotrasportatori.